Allora, intanto benvenuti a tutti. Continuo la serie di webinar che organizzo sempre ogni anno con un po' di persone, professori, coach, gente di ogni tipo, in modo da collegare tutto il discorso sulla corporeità al discorso del movimento, della filosofia, cioè tutto un lavoro interdisciplinare, perché essendo insegnante Feldenkrais di religione e filosofia, cerco di fare sempre un lavoro interdisciplinare, visto che noi siamo sia animali, ma siamo anche esseri umani, con una ragione, un'intelligenza, una volontà, e quindi cerco, per quel che si può e per quel che riesco, di fare tutto un lavoro integrato. Adesso parto col farti vedere delle. Vediamo un po', li ho persi. Dove sono finite? Scusatemi. Vediamo un po' aperto. Non ci sono. Allora, questo lo possiamo chiudere. Ah, no, ho chiuso, ecco perché non andava. All'esterno. Eccoci. Condividiamo a schermo intero. Ok, voi riuscite a leggere, presumo, giusto? Bene, allora, vediamo se riesco a spiegarmi, perché ho dato questo webinar il titolo Per una nuova teologia del corpo. Allora, se qualcuno ha studiato un po', di teologia del corpo, si rende conto che è una cosa in evoluzione, non è una cosa già statica, già stata stabilita, perché, come vi dicevo prima, è un lavoro interdisciplinare tra varie materie. Per cui io ci tengo a sottolineare che perlomeno dovrebbe essere che l'evoluzione delle scienze, sia psicologiche, sia le neuroscienze, sia la filosofia, eccetera, si colleghino in modo da aiutare anche a vivere la fede e la spiritualità in modo diverso. Quindi la mia ambizione è, non so se ci riuscirò, in caso mi fate domande e mi aiutate, la mia ambizione è riuscire a far vedere quanto in teoria lo sappiamo, ma poi nella vita di ogni giorno quanto il nostro umano, il nostro corpo, i nostri sensi, i nostri sentimenti sono strettamente, fortissimamente collegati a quella che è anche la vita teologica, vita soprannaturale per chi è cattolico. Ovviamente io insegno anche il metodo Feldenkrais e attraverso questo posso già partire con l'affermare che grazie a questo metodo che ho studiato negli anni 80 a Londra, mi ha aiutato molto a rendermi conto di quanto avevo un'educazione volontarista, stereotipata, molto bloccata, ma in un certo senso fatta fiorire dal punto di vista umano. Se non l'avessi avuto, non so come sarebbe andata a finire. Allora, facciamo delle premesse, e non so come mai non continua. Eccole qua. Allora, quello che premetto è, punto primo, che cos'è quella che viene chiamata la teologia del corpo? Allora, sappiamo che la teologia è in pratica lo studio di Dio. La teologia del corpo invece ha una dimensione che si collega a Dio ed un'altra invece umana, ed vedremo poi nella creazione, Dio crea l'uomo, l'essere umano, uomo e donna. Queste due dimensioni, sia quella che riguarda Dio che quella che riguarda l'essere umano, anche come uomo e donna, sono strettamente, collegate. Quindi, di fatto si potrebbe dire che la teologia è lo studio di come Dio si rivela nella storia dell'uomo, e invece la teologia del corpo è la riflessione di come Dio si, rivela attraverso il corpo dell'uomo, della donna, dell'essere, umano. E, altra premessa è perché ho, deciso di partire, partendo dalla teologia cristiana. Ovviamente, punto primo, io sono cristiana cattolica, quindi è ovvio che io parto dalla mia prospettiva. Sarei un po', strana se partissi da una prospettiva, che non è la mia. Perché questo mi ha sempre attirato fin da quando ero giovane, il discorso sulla corporalità. Allora, niente di meglio che pensare che nella religione cristiana ci sono due fatti intimamente connessi, che sono i due misteri principali: uno è la Trinità, quindi Dio è unico in tre persone, e l'altra è la bellezza di un Dio che si incarna, che prende corpo. Allora, non stiamo a parlare tanto della dottrina cristiana in sé, tanto sottolineiamo semplicemente una cosa per chi non la conoscesse tanto, che il fatto della incarnazione, dell'embodiment di Cristo non è quello da parte di un Dio che prende un corpo ed entra nel corpo. Dio prende e si incarna e vive e cresce come qualsiasi altro essere umano, tant'è vero che come essere umano ha pure lui un'anima, come uomo, eppure lui, sviluppandosi come essere umano personale, deve imparare a prendere le cose, imparare a camminare, imparare a mangiare, imparare a crescere. Quindi la bellezza che a mio avviso non è conosciuta e che non è mai detta fino in fondo, è che questo Dio è sceso, è entrato nel tempo, e anche questo sarà una cosa molto importante che poi collegheremo le cose, è entrato nel tempo, quindi nella storia, quindi essendo entrato nella storia, Dio stesso si è in un certo senso limitato nel tempo nel fare una cosa dopo l'altra come noi. E questo già anticipo, butto qualcosa di quello che dirò più avanti, e questo è interessante perché il discorso del vivere il bene la propria fede religiosa e viceversa è collegato anche al discorso di vivere al meglio quello che adesso con la mindfulness, scusate la voce, ma è un mese che va su e giù, quello che con la mindfulness adesso è molto sottolineato sul discorso del vivere al meglio il momento presente. Ovviamente la mindfulness da un punto di vista cristiano è leggermente diversa da quella di Kabat-Zinn. In che senso? Nel senso che dal punto di vista buddista o d'altro tipo si cerca una serenità, una pace, una tranquillità. Il modo di vivere invece la mindfulness a livello cristiano è il prendere consapevolezza nel fare al meglio quello che si sta facendo, mettendo attenzione a questo processo per arrivare ad uscire da se stessi ed aiutare meglio gli altri e a influire nel mondo. Quindi In questo tipo c'è un fine, un obiettivo, nell'altro è più il fine è come ricercare la propria pace e tranquillità, tanto per dare qualche piccolo spunto. Quindi sono partita da questo perché poi se noi pensiamo, come sottolineerò un po' di più dopo, la vita di ciascun uomo come storia che ha un inizio, è una fine, e l'uomo è nella storia, e quello che è il figlio di Dio, che nel cristianesimo è considerato vero Dio e vero uomo, è nella storia, oltre che essere anche nell'eternità, e noi stessi cominciamo già a vivere quotidianamente, secondo questa visione della fede, cominciamo già a vivere quotidianamente, già adesso, nell'eternità. Nel momento in cui noi diamo uno scopo di amore a quello che facciamo, già c'è un anticipo nel modo di vivere adesso quello che sarà l'eternità. Allora, queste sono le premesse principali. V'ho detto anche che ovviamente non tratto il discorso dell'essere umano come uomo e come donna, la differenza sessuale, anche se ovviamente ciascuno di noi come uomo o come donna ha tutte le cellule del proprio corpo che sono maschili o femminili, quindi in questo momento non mi dilungo su questo, anche perché poi c'è il collegamento con il gender che magari più avanti si può fare. Altra cosa importante per quello che riguarda, mi sono dimenticata di dirvi, il momento presente è che ci sono degli scrittori spirituali che sono accettati sia da cristiani che anche da visioni più panteiste, che nel loro scritto parlano del momento presente come sacramento. Nella visione cristiana cattolica il sacramento è un segno sensibile di quella che è la grazia, l'aiuto spirituale, il dono che fa Dio. Quindi il momento presente stesso è fatto al meglio già un segno che ci permette, come dicevo prima, di collegarci ancora di più al soprannaturale. E nella teologia del corpo, che a livello cristiano è stata sviluppata molto con Karol Wojtyła, Giovanni Paolo II, come lo preferite chiamare, Karol Wojtyła diceva addirittura, cosa che non è strana, che il corpo stesso è un sacramento, perché è un segno di quello che siamo noi come persone spirituali. La parte nostra spirituale si manifesta attraverso il nostro corpo. E qui possiamo anche sottolineare quello che a volte le persone confondono, che quando si parla di anima, non so se tutti hanno studiato un po' di filosofia così, l'anima è il principio della vita, un conto è il principio della vita, che quindi attraverso lo spermatozoo, la cellula uovo, la persona si sviluppa, l'RNA, DNA, che poi è responsabile del colore dei capelli, eccetera. E questo è il principio proprio della vita. Poi, a livello, in questo caso, di fede cristiana, c'è la vita soprannaturale. E che cos'è? Non è nient'altro che questo aiuto che dà la relazione con Dio per illuminare e vivere meglio la persona da tutti i punti di vista, da capire meglio con l'intelligenza, con la volontà, vivere meglio attraverso in modo ordinato i sensi, e voglio essere un pochino provocatoria, nel senso che nel cristianesimo i sensi, anche se un certo cristianesimo vecchio stampo li ha molto svalutati, vanno vissuti fino in fondo. Vi leggo, se vi interessa e se lo riesco a trovare, una. No, non ce l'ho. Comunque, Fabrice Aggiaji, che è un filosofo che è passato attraverso 3.000 modi di pensare, dall'essere ateo all'essere convertito, dall'essere, mi sembra, arabo, cioè un po' ha cambiato tutto. Lui diceva che nel cristianesimo anche la vita dei sensi e anche della sessualità va vissuta fino all'ultima conseguenza, al meglio possibile. Diversamente da quello che purtroppo una certa educazione ha insegnato. Ci sono delle altre cose che vediamo se riesco a trovarvi. Allora, il cristianesimo, come vi dicevo prima, formato da questi due misteri, e lo vedremo quando accenniamo un attimo alla creazione, Trinità con unico Dio e questo Dio che si incarna e si fa uomo, ha come particolare anche il fatto che si potrebbe dire dà molta importanza, o perlomeno dovrebbe, darla alla relazione. E quindi potremmo dire che da una parte c'è l'essere umano che si sviluppa al meglio con tutto il proprio modo d'essere, e dall'altro c'è la comunione di persone, in questo caso tre, che sono considerate Padre, Figlio e Spirito Santo, che si relazionano tra di loro e che potremmo considerare una famiglia. Quindi c'è sempre l'attenzione alla singola persona, sempre inserita in una comunità, cosa che anche gli ultimi filosofi che parlano di narrativa sottolineano ovviamente molto, e comunque si sa che l'uomo è un essere relazionale. Allora, un altro punto che è molto interessante della motivazione del perché parlo da questo, parto da questo, è che il modo di conoscere noi stessi, la relazione col soprannaturale e il resto, non è semplicemente a livello cognitivo, intellettuale, dal punto di vista di intelligenza e di volontà, ma torno a citare questo libretto minuscolo che si intitola L'abbandono alla divina provvidenza di De Caussade, e quello che vi dicevo che è letto da tutti perché è verità. Lui sottolinea molto il momento presente, ma poi anche sottolinea il fatto che noi non cresciamo come persone e non conosciamo veramente in profondità anche la vita soprannaturale interiore nostra e Dio, se non attraverso la sofferenza e l'azione. Quindi noi possiamo aver conosciuto, aver letto, ma di fatto non si conosce perfettamente, e i colleghi Feldman lo sanno, che si impara, secondo il nostro metodo, solo quando faccio. Quindi, quando attraverso l'esperienza della sofferenza e dell'azione, io cresco come persona. Ovviamente possiamo anche sottolineare questo, che leggendo alcuni scritti di Papa Francesco, soprattutto quello Laudato Si, che è quello che riguarda l'ecologia, lui scrive che Gesù viveva in armonia con la creazione e gli altri ne rimanevano stupiti. E non appariva come un asceta separato dal mondo o nemico delle cose piacevoli della vita, ed era distante dalle filosofie che disprezzavano il corpo, la materia e le realtà di questo mondo. Quindi, questa è un'altra delle motivazioni. Quindi potremmo dire, ritornando alla citazione della teologia del corpo che vi ho fatto di Wojtyła o Giovanni Paolo II, che teniamo presente, è stato una persona dalla vita dura, ha lavorato come operaio nelle cave, e ha fatto l'attore, aveva riconosciuto, si era reso conto che per conoscere veramente la persona com'è era indispensabile vederla nell'azione, motivo per il quale molto spesso si dice che gli insegnanti di educazione fisica a scuola conoscono, la persona come è realmente come persona, mentre altre materie molto spesso li riconoscono dal punto di vista intellettuale, basta. Lui portava i ragazzi in giro in canoa e andava a camminare con loro in montagna. E non solo, lui sciava, a parte che per me questo è un mito, io avendo fatto gara di sci, avendo insegnato a sciare, avere costui che sciava, figuratevi. Quindi era una persona che il corpo l'ha vissuto e non parliamo del discorso della sofferenza, lui è stata la testimonianza vivente dell'evoluzione della vita della persona dalla giovinezza fino a quando se n'è andato. Allora, lui scrive: mentre per la mentalità manichea il corpo e la sessualità costituiscono un antivalore, e questo lo ribadisco perché purtroppo quello che viene detto nel cristianesimo è il contrario di quello che è o che dovrebbe essere. E per il cristianesimo rimangono sempre un valore non abbastanza apprezzato. Ed inoltre sottolinea l'importanza che questa teologia del corpo, che fonda poi il più appropriato metodo della pedagogia del corpo, cioè in pratica l'autoeducazione che ciascuno di noi fa, ci aiuta anche attraverso tutti quanti, come si dice, gli sviluppi, come ho anticipato prima, delle scoperte della biologia, della scienza, della neuroscienza, della biomedicina che si trova nell'evoluzione contemporanea. Allora, questo l'abbiamo detto. Adesso vi anticipo un discorso. Come vedete nel video, ho intitolato questo piccolo paragrafetto La storia delle storie. Cosa vuol dire? Siccome l'uomo è nel tempo e essendo nel tempo vive la vita come storia, infatti la vita eterna, come diceva un professore che c'è stasera, è come rivedere tutta quanta la propria vita come un film. E potremmo dire che la storia delle storie, che chiamata in questo modo si rifà un po' al modo di parlare ebraico. Se noi apriamo la Bibbia, leggiamo nel primo versetto della Bibbia, quindi nel primo capitolo della Genesi, in principio Dio creò il cielo e la terra. Pensate alle storie dei bambini, c'era una volta, cose del genere. E non solo. Quando si passa al Vangelo, quello di Giovanni che a me piace molto, viene ripreso il discorso dicendo: in principio era il verbo. Quindi la storia, e Le storie che noi studiamo nella letteratura, le biografie, le nostre autobiografie, e le biografie possono essere anche trasmesse come film, come opera teatrale, e la nostra storia stessa, che è fatta dalle nostre azioni, che possono essere messe per iscritto quando le abbiamo vissute con delle frasi, hanno un inizio e una fine. La fine, se voi andate a controllare l'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, il libro misterioso che a me piace molto di più col titolo inglese americano che è chiamato il libro delle rivelazioni, si conclude verso gli ultimi versetti dicendo: e regneranno nei secoli, nei secoli. Giovanni Paolo II, quando parla appunto di questi primi capitoli della Bibbia, della Genesi, soprattutto i primi tre, dice, e se ciascuno di noi ci pensa un attimo, se ne rende conto, perché il discorso della creazione, ammesso che uno creda, se c'è un creatore, che poi sia cristiano, cattolico, di altre religioni, eccetera, ma ammesso che una persona creda che ci sia un creatore, si rende conto che in questi racconti c'è proprio la verità di quel che ci riguarda. Infatti Giovanni Paolo II dice: l'uomo ha forse troppa scarsa coscienza della verità che lo riguarda e che è racchiusa già nei primi capitoli della Bibbia. Ora affronteremo, io non so se qualcuno ha avuto la possibilità, non li sto a leggere, in caso se qualcuno si incuriosisce, se lo legge, faccio un po' un escursus, perché sennò su ogni cosa ci stiamo 10 ore. Nel racconto della creazione, il discorso di quello che poi accadrà sul peccato originale, col peccato originale, è più o meno riconosciuto in tutte le religioni, nel senso, e anche nelle persone che non credono. Ciascuno di noi riconosce che ha dentro di sé dei desideri, vorrebbe riuscire a fare delle cose, e di fatto non ci riesce. C'è sempre questa all'interno, al nostro interno, queste due polarità che possono essere già, ma non ancora, uomo vecchio, uomo nuovo, l'essere, mettermi una maschera per recitare la parte della mia vita che all'inizio è solo una maschera esterna, invece poi questa maschera arriva ad essere appiccicata a me stessa e quindi io divento quello che faccio ripetutamente. Quindi in questo tutte le persone più o meno sono d'accordo. Se ci sono domande o se siete anche stanchi, me lo dite che mi fermo e parliamo. Passiamo alla creazione. Io ho usato questi dipinti della Cappella Sistina che a mio avviso sono meravigliosi, fanno proprio vedere l'importanza, la bellezza, la grandezza di quella che è la corporeità. Pensare, no, non so se lo sapete, che nel corso, adesso non mi ricordo più in che periodo, però addirittura c'era un modo di vedere un po' chiusino, per cui avevano fatto i mutandoni a tutti questi nudi della Cappella Sistina. Poi, grazie a Dio, si è tolto tutto e si è ritornati all'originale. Allora, la creazione è divisa nel racconto della Genesi in due capitoli. Il primo, che di per sé è stato scritto dopo, è più rivolto ai sacerdoti, diciamo in un certo senso alle persone di cultura. Il secondo, invece, che è stato scritto prima. Penso che vi ricorderete, se no ve lo ricordo, vi faccio riassunto io, che nel primo racconto, che è quello più, diciamo, più speculativo, più metafisico, invece il secondo è un po' più soggettivo, un po' più psicologico, nel primo si racconta proprio di come Dio crea, in principio Dio creò, e comincia con il creare il giorno e la notte, comincia con il creare l'acqua e la terra, poi va avanti con il creare le piante, poi crea, adesso non mi ricordo bene l'ordine, in pratica il firmamento con le stelle, il sole, la luna, finché arriva a creare quello che è l'uomo. In ogni giorno della creazione, che ovviamente dò per scontato che sappiamo che non è così la realtà, perché basta pensare un attimo da quanti milioni di anni c'è la vita sulla Terra, non è certo successa in un giorno. E diamo anche per scontato, perché altrimenti ci investiamo 10 anni, che la creazione non è, come tendono a spiegare a scuola, in contrasto con l'evoluzione. L'unica cosa è accettare che c'è qualcuno che ha creato, dopodiché da dove deriva l'uomo e la vita della terra, eccetera, spetta alla scienza studiarlo. Allora, quando si parla del primo racconto della creazione, ad un certo punto, alla fine di ogni giorno, Dio dice, e vide che era cosa buona. Andiamo avanti e abbiamo l'uomo. Non so se vi conviene guardare sul Padlet o vi basta che ve lo dica io, purtroppo non ho fatto in tempo a copiare il racconto. Quando si arriva alla creazione dell'uomo, non si parla più al singolare, ma si parla al plurale. Mentre si dice Dio disse si è fatto il cielo, Dio disse si è fatto tutto il resto, quando si arriva all'uomo si parla al plurale, dice facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Ed in questo si vede il collegamento che c'è all'interno della creazione con quella che è la famiglia, la Trinità, il parlare al plurale, e poi ci sono varie interpretazioni. A me piace molto questa e forse è la più corretta. Ultimamente non sono più informata, ma anche Giovanni Paolo II mi sembra che la pensi così. E si parla al plurale perché l'uomo, si dice, è Dio che facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, immagine di Dio lo creò, maschio e femmina lo creò. Quindi si parla dell'essere umano come immagine e somiglianza di Dio, non solo come la singola persona, e qui a me viene da fare il paragone con l'incarnazione, Dio che si fa uomo, Dio che si fa persona. E si parla anche come plurale, come famiglia. L'uomo e la donna sono completamente immagine di Dio nel momento in cui sono uomo e donna e vivono e sono nella carne. Quindi c'è come un parallelismo che prima, anche se ci sono degli animali che vengono benedetti, viene detto loro, che si riproducano e che si moltiplichino, con loro non si parla al plurale perché ovviamente non sono immagine e somiglianza di Dio. E quindi c'è questa bellezza dell'uomo che, per me, io quando leggo questi primi 2 o 3 capitoli ci starei a pensare non so quante ore, l'uomo immagine e somiglianza di Dio come essere umano e immagine e somiglianza di Dio come famiglia, come comunione di persone. In questo modo, se l'uomo immagine e somiglianza di Dio, sto scorrendo molto velocemente, nel secondo racconto si parla in modo un po' più psicologico, più soggettivo, con un racconto che Dio soffiò la luce di vita, fece come questa apertura con il fango, poi vabbè, il fango può essere qualsiasi cosa, c'è dell'evoluzione, rispetto al discorso religioso parlare di questo. Ma la cosa interessante è che all'uomo viene dato l'incarico, come immagine, No, no, sì. di lavorare la terra e di custodirla. Quindi anche da questo punto di vista è una cosa molto bella il tenere presente che uno abbiamo l'incarico di custodire la terra, anche se la dominiamo, siamo i signori. Dall'altro abbiamo l'incarico di portare in un certo senso avanti la creazione attraverso le cose che noi facciamo, che all'inizio è coltivare la terra, poi si arriva allo sviluppo di tutto il lavoro umano e a mio avviso io ci trovo collegato anche al discorso ovviamente dell'azione umana. E l'azione umana è qualsiasi cosa faccia l'uomo, non solo il lavoro retribuito. E questa è una cosa molto importante, a mio avviso, da sottolineare perché collega sia al movimento, sia all'ascolto di sé, sia al dare il meglio di sé da tutti i punti di vista, cosa che tempo addietro si era un pochino perso di vista. Detto questo, c'è poi tutto il collegamento al peccato originale, che è molto semplice. In questo peccato originale, l'uomo e la donna sono felici, vivono in armonia con il creato, con Dio, con tutto, ma non accettano la dipendenza, non accettano di essere immagine e somiglianza di Dio, ma voglio essere Dio. Nel momento in cui tu non accetti quel segno d'amore che ti aveva dato Dio con la creazione, perché il divieto di mangiare quel simbolo non era tanto devi essere sottomesso e basta. Il significato era nel momento in cui tu mangi quello, innanzitutto muori, avrai disordine dentro di te, ma nel momento in cui conosci il bene e il male, fai anche il male e perdi l'armonia che hai al tuo interno. Quindi il discorso del peccato originale è semplicemente un discorso di orgoglio dell'essere umano che dice: io sono Dio, non ne voglio sapere di avere questo legame di dipendenza, questa relazione con Dio, ed è molto semplice. Se tu rifiuti il legame, la relazione con la persona che ti ha creato, come anche con i genitori, non sei contento, rompi l'armonia, cioè come una separazione. Infatti da lì cosa ne deriva? Secondo il cristianesimo deriva la malattia, deriva la morte. Deriva il fatto di fare fatica a studiare, deriva il fatto che non sempre riusciamo a fare quello che vorremmo, deriva il fatto che non abbiamo il completo dominio di noi, per non dire poi quello che si manifesta ogni giorno quando vediamo il telegiornale del femminicidio. Io a mio avviso dico, ragazzi, è tutto lì. Perché? Perché la conseguenza che cos'è? L'uomo arriva a dominare sulla donna e la donna è attratta dall'uomo e sta a lui sottomessa. Ma sta a lui sottomessa nel senso negativo, non nel senso con di ruoli diversi. Quindi il peccato originale ha provocato questa frattura all'interno dell'armonia e mi viene anche da dire che tutto il problema ecologico è tutto collegato. Nel momento in cui rompi la relazione con l'origine della vita, rompi la relazione con tutto il creato che ti sta attorno, rompi la relazione tra l'uomo e la donna e poi rompi, dividi sempre di più, separi, l'uomo lavora per tutta la vita per cercare di avere questa integrazione che non ha più e che ha perso con l'agire nel momento in cui tagli una relazione, pian piano arrivi a tagliare le relazioni, quindi chiuderti sempre in te stesso. E siccome il tema dell'uomo è amare e essere felice, se tu rompi quella possibilità di uscire da te attraverso la relazione, e questo non è cristianesimo, tutti quanti sappiamo che l'uomo è un essere relazionale. E infatti c'è nella Laudato Si di Papa Francesco, si dice l'esistenza umana si basa su tre relazioni fondamentali, strettamente connesse: la relazione con Dio, col prossimo e con la terra. Questo, anche se in modo troppo tirato, mi fa venire in mente anche quello che nel mio metodo viene sottolineato come educazione, autoeducazione, relazione con l'ambiente, cioè l'uomo è collegato con tutto. Nel momento in cui c'è una parte che non funziona, tutto quanto ne risente. Allora, come fare a cercare di ricostruire questa, diciamo, disintegrazione che noi abbiamo? Allora, innanzitutto ricordarci, partendo proprio a livello terra-terra umano, che, come ho già detto, nessuna creatura basta a se stessa. C'è, e questo il pensarlo mi piace tantissimo, c'è appunto una interdipendenza di tutte le creature tra di loro, le une tra le altre. Creature si intende anche gli alberi, le piante, gli animali, e per completarsi vicendevolmente, e siamo tutti a servizio gli uni degli altri. E non possiamo prescindere tuttavia dalla nostra umanità, e non ci sarà nemmeno una nuova relazione con la natura senza che ci sia un essere umano nuovo. E Papa Francesco parla appunto di questa ecologia dell'uomo, perché l'uomo ha una sua natura. Che diversamente dagli animali, dalle piante, eccetera, non è già determinata, ma è lui il responsabile di farla fiorire o meno, e quindi questa natura non la può decidere, manipolare lui a seconda di quello che a lui piace o non piace, o che vuole o che non vuole. Quindi questo collegamento tra creato e essere umano fa sì che l'accettazione del corpo di ciascuno di noi come dono è necessaria anche all'incontrario per accettare il mondo intero come dono e come casa comune. E invece, nel momento in cui abbiamo una logica di dominio, di voler fare quello che vogliamo con il nostro corpo, la stessa cosa applichiamo al creato. E forse è troppo dirlo, ma chi lascia gli animali per strada e li abbandona quando va in vacanza è probabile che non abbia nemmeno attenzione per l'essere umano e viceversa. Allora, Una delle cose quindi che ci viene richiesta è imparare a cogliere il nostro corpo, averne cura, rispettare i significati del corpo, è appunto necessario per quella che è una ecologia umana. E poi, però qui è un tema in questo periodo un po' difficile da affrontare, ma se io non apprezzo il mio corpo nella femminilità o mascolinità in quello che sono, non riesco nemmeno a riconoscermi nell'incontro con l'altro da me. E Francesco dice: non è sano un atteggiamento che pretenda di cancellare la differenza sessuale perché perché non sa più confrontarsi con essa. Infatti, vedendo video di persone che hanno fatto tutti questi cambi, eccetera, si nota proprio che molto spesso c'è questa incapacità di confrontarsi con quello che è, che porta a fare quello che si è, che porta a fare determinate scelte e si accusa il corpo. Si tira in ballo e è una cosa stranissima. Da una parte si dice col corpo siamo liberi di fare quello che vogliamo, però poi diamo anche al corpo tutta la responsabilità delle scelte che invece sono nostre interiori e che influiscono sul nostro corpo. Quindi molto spesso i problemi che abbiamo nel corpo sono dovuti ad altri problemi, non è viceversa, come molto spesso viene detto. Allora, detto anticipato questo, ovviamente avevo detto cristianesimo per me, guardate la foto qua del giudizio universale, è l'essenza perché non so se riesco a spiegarmi, ma questo Dio essere spirituale che esiste dall'eternità, che si abbassa a prendere un corpo per innalzare noi, a diventare in un certo senso deificati, a me manda abbastanza in visibilio. Ricordiamoci che nell'Apocalisse, parlando appunto di storia delle persone, Gesù Cristo dice: io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. E cosa significa la parola incarnazione? L'incarnazione, vi leggo delle cose che ha scritto Benedetto XVI, deriva dal latino incarnatio, vabbè, questo ci. E comunque, per quel che riguarda l'incarnazione, pensate un attimo a quello che dice il Vangelo San Giovanni, che dice: e il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. La parola, il Verbo, si è fatto carne. Non ci può essere la carne senza il verbo, né il verbo senza la carne, perlomeno in questo momento a redenzione avvenuta. La parola carne viene usata indicando l'uomo, tra virgolette, integrale, tutto l'uomo nella sua integralità, ma sotto l'aspetto della sua caducità, della sua temporalità, della sua povertà e della sua contingenza. Quindi, questo ha fatto sì che con l'incarnazione, Cristo incarnandosi, tocchi l'uomo in tutta la realtà concreta e in qualunque situazione si trovi. perché ha vissuto uomo come noi, ha lavorato con le mani come noi, ha pianto, ha riso, ha ballato, ha mangiato, ha pensato con una mente, un ragionamento umano, amato con un cuore umano. Quindi è uguale, identico, non in tutto, eccetto che nel disobbedire a quello che è suo padre, ma non disobbedisce tanto per paura, perché deve obbedire, ma per amore. E questa è una cosa che purtroppo è molto spesso dimenticata all'interno della religione, cioè il fondamento della religione è l'amore, l'amore che si incarna, l'amore che dà vita, l'amore che scalda. Quando parleremo, se vi verrà voglia di partecipare alle cose che farò anche sul tatto, perché non ho fatto in tempo a mostrarvelo oggi, ho due video nei quali uno risulta che per la prima volta in seguito a questo, negli Stati Uniti hanno cambiato il modo di agire con i bambini prematuri nel reparto di prenatale. Due gemelline nate molto prima, che si pensava morissero nel giro di 48 ore. Ad un certo punto in due incubatrici diverse, ad un certo punto una delle due comincia a diventare blu, non respirare. L'infermiera ha avuto un'illuminazione, gli è venuta un'idea. Quando ha visto questa che a momenti se ne andava, ha preso quella che stava bene, l'ha messa nella stessa incubatrice. E con il tocco della sorellina messa vicino, questa ha ripreso a stare bene. Un altro video, proprio ce l'ho, ve lo mostrerò, racconta appunto di questa mamma che è stata chiamata dal reparto dicendo: guardi, suo bambino, bambino, non ricordo, se ne sta andando, se vuole per l'ultima volta prenderla in braccio prima che se ne vada, la mamma prende in braccio la bambina piangendo perché dice non ti vedrò più, comincia a carezzarla e la bambina ricomincia a respirare. Quindi c'è questo stretto collegamento tra la vita e il corpo che è una cosa veramente, veramente incredibile. Altro aspetto, vado avanti, salto un po' di cose, è per la nuova teologia del corpo. Allora, perché ho detto nuova? Perché appunto, vi dicevo, è molto interessante tenere presente che le nuove scoperte nel campo della psicologia, neuroscienze e filosofia influiscono anche sulla vita spirituale. È ovvio se ci si pensa. E allora, non so se voi l'avete sperimentato, non so se avete una religione, non so se siete atei, però fino a una cinquantina d'anni fa c'era, dopo un periodo in Medioevo, più o meno si viveva abbastanza in modo incarnato la fede. E ad un certo punto c'è stata questa separazione tra l'anima e il corpo, e dopo, a seguito di una filosofia e dell'altra, si è arrivata all'etica del dovere, quindi faccio le cose perché devo, mi faccio anche violenza, è arrivato il volontarismo, e la religione non era una cosa vissuta con gioia, che cercava la felicità. Mia mamma mi raccontava che lei viveva nel terrore. Allora, con queste nuove scoperte si confermano delle cose che sono caratteristiche della vita spirituale più che spirituale, direi, perché spirituale è la vita che ha ciascuna persona. Dal punto di vista filosofico, l'uomo è un essere spirituale, perché l'intelligenza, la volontà, la coscienza di sé può scrivere, può lasciare scritta la sua storia. Invece, per quel che riguarda la religione, nella religione, perlomeno nella cristiana, c'è questa illuminazione, aiuto che viene dato per fare le cose meglio, con più chiarezza, con più facilità, con più gioia, con più semplicità. Allora, il fatto di vedere che tutte queste scoperte, esempio la mindfulness, esempio, scusate se lo ripeto, sembra che porti acqua nel mulino, il metodo Feldenkrais, che già da Deutsch nel libro Le guarigioni del cervello dice che è stato un anticipatore della mindfulness, ed è così perché io ancora prima che la mindfulness diventasse di moda, l'avevo visto lavorando su di me, che il fatto di rallentare, ascoltarsi, ti permetteva di lavorare meglio, stare meglio anche fisicamente, avere meno attività stereotipata, e poi ti aiuta anche a pensare in modo diverso, hai più connessioni nervose. Cioè, questa integrazione che viene confermata e a volte anche maggiormente aiutata da tutte queste nuove tecniche che sorgono, ci aiuta anche dall'altro punto di vista, come è chiaro che l'altro punto di vista ci aiuta da questo, dal punto di vista corporeo. È ovvio che l'uomo è immagine e somiglianza di Dio, soprattutto per la parte spirituale, l'intelligenza, la volontà, la memoria, e quindi saranno quelle che influiscono di più, ma sappiamo che migliori la vita che brilla, nel cuore di quello che diceva, in un bel corpo. Quindi le due cose sono integrate, quindi qualsiasi cosa noi facciamo, incluso quello che è il nostro lavoro. Perché il lavoro non è una punizione, il lavoro ci è stato assegnato come compito nella creazione, come Dio crea dal nulla, l'uomo è creativo, essendo sua immagine, nelle cose che fa. Quindi sono azioni, e dicevo prima, non è solo un lavoro retribuito. Quindi una persona può arrivare, come ci insegnano tutte queste tecniche, come c'è l'aiuto della preghiera, e qui l'accenno solo perché non so come state voi. L'uomo attraverso il lavoro può arrivare a contemplare nell'azione, nel lavorare può sviluppare anche la sua dimensione interiore mentre lavora, e non lo fa dicendo una preghierina mentre lavora. A volte nel lavoro manuale si può anche fare, ma lo fa trasformando questo lavoro in una cosa fatta al meglio, fatta per amore degli altri, fatta per amore di Dio, quindi diventa indirettamente una preghiera con l'azione, e non solo, migliora se stesso, perché attraverso il lavoro l'uomo migliora anche tutto, le proprie virtù, qualità, potenzialità, ideali che ha, e li organizza verso un fine. Il fine è lavorare bene, ma il fine del fine è lavorare per amore. Tant'è vero che se a qualcuno interessa, sul mio sito c'è un webinar che ha fatto uno dei miei insegnanti parlando della mindfulness, libertà e contemplazione, che nel momento in cui l'uomo è molto stanco di lavorare sotto stress, se è in grado di fermarsi un attimo e riflettere sul perché sta facendo questo, quindi rimotivarsi in quello che fa, proprio con, non so, la risonanza magnetica, il lavoro sul cervello, ci si rende conto che nel momento in cui riattualizzo perché faccio questo, l'energia mi ritorna. Se io per amore verso un mio familiare faccio una cosa che mi costa tanto, la motivazione è tale che la stanchezza c'è, ma è diminuita. E lavoro con tutta me stessa, e questa è la cosa bella, che ci integriamo nell'azione da tutti i punti di vista. E questo viene chiamato unità di vita. E vi leggo due o tre cose, poi una cosa veloce sulla vita come storia, la narrazione, e poi chiudo perché non vorrei stancarvi troppo. Allora, l'unità di vita. Abbiamo detto che l'uomo ha perso l'unità, ha perso l'armonia, quindi l'uomo è alla ricerca dell'armonia del corpo, di tutto il suo essere persona. E quindi cercare l'unione dall'integrità, ci siamo dispersi, adesso dalla dispersione cerchiamo di arrivare all'integrazione, all'armonia. E dice, innanzitutto, questa pienezza di integrità ovviamente si avrà solo in cielo. Perché non ho fatto un piccolo passaggino, forse dando per scontato, ma in seguito alla creazione, se uno è interessato, un piccolo inciso, a sapere un po' dell'Antico Nuovo Testamento, c'è un link Bible, Bible Project, che in 8 minuti. Fa come a fumetti il disegno con il riassunto di tutto quel libro. E ovviamente, se uno guarda i primi 11 capitoli della Genesi, dice: ma noi siamo proprio tonti, perché Dio crea Adamo ed Eva e disobbedisco. Poi c'è Caino Abele e Caino uccide il fratello, poi c'è Noè, diluvio universale. Sembra che tutto vada bene, tutto ricomincia da capo e Noè di nuovo sbaglia. Cioè, Dio cerca disperatamente per amore l'uomo e l'uomo ogni volta dice sì, ma non ce la fa. Allora a un certo punto Dio dice: senti, Gesù, vai tu sulla terra e abbassati, incarnati come uomo, così l'uomo almeno avrà un'idea vedendoti nella vita. Ora, con l'incarnazione cosa succede? Succede che Dio dà la vita e piccolo inciso che una frasetta che ha molto successo con molte persone che non stanno attente è che quando Dio Cristo muore, innanzitutto lui non voleva morire, perché lui il giorno prima dice: se puoi, risparmiami questo. Quindi la cosa bella è che l'essere umano ci tiene alla vita, però è obbediente. Secondo, non è che il cristianesimo è la religione nella quale io devo soffrire, devo fare solo penitenza così. È il contrario. Gesù ha talmente amato gli uomini che è stato disposto anche a dare la vita per amore, come una mamma dà la sua vita, soffre mentre partorisce il figlio. Se noi non avessimo crocifisso, la salvezza, la redenzione sarebbe stata fatta in altro modo, senza la croce. Allora, la pienezza di questa integrità, ecco, questo passaggino che mi ero perso, deriva da cosa? Deriva dal fatto che il Figlio di Dio viene e ci eleva e quindi ci rimette in condizione di poter, grazie al suo aiuto, arrivare a quella pienezza di integrità che avremo nel cielo, ma che un po' viene anticipata già sulla terra grazie a quella che è l'unità della nostra vita, che non è una risorsa psicologica e nemmeno il risultato dello sforzo di volontà. Noi tranne che sappiamo tanto quanto è volontarismo, perché poi lo sforzo di volontà va fatto insieme allo sforzo dell'intelligenza. Non ci può essere uno sforzo di volontà se non si capisce anche. Allora, non è uno sforzo di volontà, ma è la percezione che ciascuno di noi può avere del valore divino di quella che è la realtà della vita di ogni giorno. E vi leggo una frase molto bella che a me, sulla quale io ho riflettuto tanto anche su scegliere se continuare a fare un lavoro o l'altro. Dio ha dato a ciascuno di noi qualità e attitudini concrete e determinate inclinazioni. Attraverso le vicende della nostra vita si è andata profilando la nostra personalità e quindi ciascuno di noi ha visto come più adatto a sé un determinato campo di attività. Quindi è un insieme di nostra volontà, di dono che ci è stato fatto e di storia di come procede se non va in un modo o nell'altro. In seguito, lavorando in questo campo, si è progressivamente configurata quella che è la nostra mentalità, con l'acquisizione delle caratteristiche peculiari di quello che è il nostro lavoro, mestiere, professione. Tutto questo, la nostra vocazione professionale, che c'è in ogni essere umano, che ha, nasciamo tutti originali, alcuni muoiono fotocopie. Dice Acutis, questa vocazione professionale la dobbiamo conservare perché non è una cosa indifferente. Perché? Perché appartiene alla nostra vocazione all'essere pienamente noi stessi, vale a dire all'essere santi. La vocazione umana è una parte importante di quella che è la vocazione divina. E a questo livello c'è una frase di Giovanni Paolo II, e anche qui cerchiamo, io non so se qualcuno l'ha letto, ma avevo detto leggete queste frasi prima in modo da non avere pregiudizi né positivi né negativi su quello che dico, ma cercare di costruire insieme. Allora, Giovanni Paolo II dice: colui che ha vissuto fino alle ultime conseguenze la chiamata ad essere pienamente se stesso, secondo la stupenda originalità che il creatore ha posto in lui, è il santo. Se voi pensate a Madre Teresa di Calcutta, tutti erano attratti da questa donna, mica perché erano di una religione o l'altra. Io sono rimasta basita, al suo funerale c'era l'universo intero, dagli atei a tutti quanti. Quindi siamo fatti con una originalità che siamo chiamati a realizzare in pieno. Questo non vuol dire che io allora sono come sono e non cerco di migliorarmi, no? L'idea è l'essere pienamente se stessi è molto difficile, nel senso che molto spesso per esserlo siamo tagliati fuori dal gruppo. È un andare controcorrente. Quindi il vivere in pieno quella che è la nostra originalità corporea, perché è anche corporea, spirituale e tutto quanto, ci richiede di andare controcorrente. È, dice ancora in altro senso Giovanni Paolo II, la misura alta della vita di fede ordinaria. Cioè, quindi è nel quotidiano che ci troviamo a integrarci in qualsiasi azione facciamo completamente noi stessi. E in questo io ritorno a fare il confronto per quello che è il metodo che insegno, il Feldenkrais, perché? Perché l'altro ieri ho fatto un seminario a insegnanti di lingua e mi sono accorta che ancor più della parte pratica a loro aiutava molto i principi del metodo, non fissarsi su una parte, lavorare in consapevolezza, lavorare lentamente, cercare di usare la motricità volontaria, che poi vabbè, è un po' diverso il discorso dell'agire etico, ma comunque è sempre un parallelo. Quindi, come fare se vogliamo vivere una nuova teologia del corpo per essere veramente noi stessi, per fiorire, fiorire come persone da tutti i punti di vista. Ed è bene fiorire da tutti i punti di vista, perché Dio ci ha creati con un'anima e un corpo, quindi da tutti i punti di vista siamo chiamati a fiorire. Allora, altri suggerimenti possono essere: uno, avere ampiezza di orizzonti, non accontentarsi di quello che si conosce, avere curiosità, che per esempio nel Timecast viene molto sottolineato. E approfondire la fede che noi viviamo. Io la cattolica, altri possono avere altro, o approfondire il significato della vita, che già in Viktor Frankl ha aiutato tantissime persone a sopravvivere alle lager. Poi avere un grande desiderio di rinnovare un po' il pensiero tradizionale nel campo della filosofia, dell'interpretazione della storia, perché tutto rimanga uguale, tutto deve cambiare. Avere attenzione a tutto quello che si rinnova nella scienza e nel pensiero contemporaneo, e poi avere anche un atteggiamento positivo di fronte a tutti questi cambiamenti nelle strutture sociali, modi di vita. Pensiamo al virtuale, che anche qui io sottolineo ancora di più l'importanza della corporeità e di fare esperienza del corpo vissuto, perché diventiamo sempre più virtuali. Cioè, a scuola i ragazzini non sanno nemmeno fare le capriole. A scuola ho letto un articolo, mi pare, Beatrice, che me l'hai mandato tu, nel quale si dice che i ragazzi di adesso sono meno intelligenti dei genitori perché non sanno parlare, e non sanno parlare anche perché non solo non usano la testa, ma anche la corporeità, parlano con i verbi al presente. Non esiste in loro, lo sperimento ogni giorno, il passato o il futuro. E se tu non sperimenti il passato e il futuro, parli sempre con il verbo al presente, e parlando con il verbo al presente, non riesci a riflettere sul passato. Ecco perché gli insegnanti si lamentano e dicono: glielo ho detto ieri, è tutto uguale. Certo, perché loro vivono sempre al presente, parlano al presente, non vivono completamente se stessi nel corpo, e nemmeno sono proiettati sul futuro, e quindi la loro intelligenza rimane bloccata. A volte ci mettono mezz'ora a dire un'opinione, non un'interrogazione sulla quale hanno studiato o no. Non riescono a muovere la bocca, talmente non sono abituati a farlo. Quindi io sono il mio corpo, ovviamente lo possiamo intendere in due modi: in senso materialista, io sono solo cervello, muscoli, eccetera, e in senso anche spirituale, nel quale io nel mio corpo rivelo quello che sono, che è un qualcosa di più della materia. Ed infine, perché mi pare che sia troppo tempo che parlo, c'è il discorso dell'etica narrativa, della narrazione. Allora, ciascuno di noi ha questa vita, e questa vita la raccontiamo, questa vita si sviluppa nel tempo, la raccontiamo vivendola, e vedere anche da questo punto di vista un'etica che coinvolge in pieno il corpo, sensazioni, sentimenti, intelligenza, volontà, tutto, ed un'etica che invece dice bisogna far così, che mantiene come le regole esterne imposte, invece che pian piano interiorizzarle ed appropriarsene, non funziona. Invece, un'etica nella quale tu vivi la tua vita come una storia, nella quale hai un fine che ti poni, e sai che è un inizio nel tempo, sai che devi rendere conto quando vivi di quello che fai, perché vivi in una comunità. Impari ad accettare la tua vulnerabilità perché entri in una storia che è già cominciata, perché vogliamo o no, entriamo nella storia già cominciata, almeno della vita dei nostri genitori, se non quelli del paese, della famiglia, eccetera. E ci aiuta a far sì che globalmente, di più come anima e corpo, vediamo anche la nostra azione. Quindi quello che io faccio è anche quello che io scrivo, che io faccia, che io dica ho alzato la mano o che alzi la mano, il significato è sempre quello. Infine, c'è da fare una distinzione. La nostra storia vogliamo che sia tragedia o commedia? Diventa la nostra vita con un fine di tragedia nel momento in cui ci chiudiamo noi stessi e non usciamo da noi stessi nella relazione in un amore statico all'esterno verso di noi. Nel momento invece in cui ci chiudiamo solo nel nostro io, certamente non siamo felici. E questo, se voi ci pensate, ritorno, l'ultima cosa, come dicevo, nella vita di Gesù, nel Vangelo di San Giovanni, ad un certo punto c'è scritto il figlio unigento che è nel seno del padre, lui l'ha narrato, l'ha rivelato. Quindi siamo immagine e somiglianza di Dio in qualsiasi cosa e ci cresciamo nel tempo. Anche l'amore non è che io amo, l'amore per sempre è di questa notte con una persona. L'amore per sempre si sviluppa lungo tutto il corso della vita, perché se è per sempre, vuol dire che in ogni attimo riattualizzo quello che è il voler bene all'altro. Qui saltiamo, invece, siccome ciascuno di noi ha una storia, quindi da raccontare sia unica e originale, è importante ricordarsi che nella storia il ripetere le azioni, le frasi, perché noi viviamo per prove e per errori, non c'è nessuno che nasce imparato e quindi noi diventiamo quello che facciamo ripetutamente. E quindi l'eccellenza non è un'unica azione, ma come dice Aristotele, un abito. Ed infine, a me piace molto questa frase perché mi apre molto il desiderio, la mente. Quando i pattern, gli schemi si rompono, emergono nuovi mondi. Chiaramente da soli non si riesce a fare, serve sempre l'aiuto di un amico, di una persona e poi se uno prega all'aiuto di Dio, ma rendiamoci conto che molto spesso noi siamo chiusi. E più diventiamo aperti, anche i sensi e tutto quanto il resto si aprono alla realtà intorno a noi. E quindi pian piano si aprono nuovi orizzonti che non si troverebbero in altri momenti. Ho finito, basta. Se avete domande, se no vi lascio andare perché non vorrei essere stata un po' pesantina, è un'ora e mezza più o meno. Professor Jimenez, se può contribuire dicendo delle cose che le sarei grata. O anche correggere. No, Se... no, no, no, no, per carità, ti voglio solo ringraziare, è stato molto, molto interessante. Poi si può dialogare, no, no, assolutamente, non sono nessun giudice. No, no, non giudice, ma dico magari qualcosa di interessante da collegare. Che succede? Andiamo in Gran Bretagna, William Kate, conosci la domanda di parole Qualcuno mi parla? Allora adesso scusate, vediamo un po', guardo io qua. Gli schemi si rompono. Sì. La principessa di Giannis decide di spiegare il vero motivo della sua cercare di configurare le parole. Ok. Qualcuno ha qualche intervento anche che mi può servire per migliorare e aggiungere qualcosa? Perché io sto cercando di fare un po' un riassunto, una sintesi, ma non è facile, perlomeno per me che sono molto prolissa e analitica. Ma no. Oddio, le ho fatte addormentare tutte. Posso? Sì? No, e quando a proposito del momento presente, chi è che ne parlava come sacramento? De causale, nell'abbandono alla Divina Ok. Provvidenza. Perché a me sembra che è più utile per capire il valore che può avere questa espressione, dire. E come un sacramento, poi bisogna poi spiegare che cos'è un sacramento, di un sacramento, in quale senso? Nel senso di segno Anche efficace, no? Che ciò fai l'acqua e che limone. c'è qualche Eh sì, microfono acceso. allora facciamo così: io ve li tolgo e chi parla se lo attiva, così almeno siamo più e non diventate matti. Ok, il tuo è aperto, gli altri sono chiusi. Ok, no, perché il corpo come sacramento, come segno efficace, ecco perché io lo capisco di più del momento. Non sarebbe meglio, cioè più eloquente l'idea di simbolo reale, il simbolo perché il momento presente è la vita. Cioè la vita dov'è? È il momento presente. Certo, non è tutta lì. C'è il passato e il futuro e questo è vita. Però è veramente vita, perciò è reale. E non è tutta, ma mi manda al resto della vita e perciò è simbolo. Io troverei più luce in quest'altra espressione. Simbolo reale che io cercando una terminologia nella retorica, curiosamente simbolo non fa parte del lessico della retorica, sarebbe una metonimia reale. Oh, è difficile prendere questa parola. Metonimia reale, e lo vedo più illuminante del sacramento, non so in quale senso. Il momento presente è efficace. Perché io pensavo questo, ma magari è una. Cioè, io sono andata via con il mio pensiero. Siccome il tempo è creato, fa parte della creazione, e quindi si può misurare. E quindi può essere anche un segno. Ma no, non vedo Intendevo il legame questo. fra creazione e misura. È E confuso questo. segno perché dicevamo come segno efficace perché se un segno perché mi porta a qualcosa poi efficace perché è reale. Ok, no, ci devo pensare. Come dicevo, a me sembrava più illuminante Ma semmai mi quest'altro. interessa questo, mi interessa molto perché io ho semplicemente collegato a De Caussade che parlando, dicendo alle persone, in pratica la mindfulness, vivi al meglio il momento presente, l'azione, quello che fai in questo momento, e il resto abbandonati a Dio e lascia che Dio agisca. Questo è il succo del suo. Però capisco come lo dici. Probabilmente ho fatto confusione anche sul tempo, me lo rivedo. Siccome questa parte mi piace molto. A proposito di tempo, io non so se è una mia allergia, ma ogni volta che sento dire che prima una cosa è così, adesso sta bene, adesso abbiamo il giusto approccio a qualcosa, però prima non andava bene. C'è stata un'espressione in cristianesimo vecchio, di vecchio stampo. Allora, a volte si può avere l'impressione che fino a 50 anni fa, ma poi tutto da lì dietro, non si sapeva che cosa era il corpo e adesso finalmente lo stiamo scoprendo. In realtà queste cose cambiano e ci sono momenti di più È vero. consapevolezza, meno consapevolezza, cioè non so, il giansenismo che mette un po' di problemi di questo tipo, però poi passa e ci sono momenti all'inizio del cristianesimo, è una grande novità quanto viene apprezzato il corpo. E ci sono difficoltà per un giusto approccio, e ci sono alcuni che sono contrari, però una novità è questa. Ora, le cose cambiano, tornano, si aggiustano. Adesso sto seguendo una tesi dottorale che avrà un capitolo sulla filosofia Ubuntu. Che poi è uno studente africano. È una filosofia, un modo di pensare che è nato in Africa, sembra nato dal sangue degli africani che sono fatti così, molto comunitari. Ubuntu significa qualcosa come io sono perché noi siamo. Ed è molto. Si può facilmente mettere in sintonia con il personalismo, no, più che personalismo, con la relazionalità, la persona, la nozione cristiana di persona che è rapporto con le altre persone, è inconcepibile la persona isolata, che non ha nessuno, quando si parla dell'uomo che ha fatto se stesso. Beh, sì, va bene, un po' più autonomo degli altri, ma quanto deve ad altri? E questo invece, no, invece no. In questa filosofia, poi se cercate Ubuntu, troverete un programma, un sistema operativo che si chiama Ubuntu, e allora bisogna eliminare un 90% dei risultati che sono il sistema operativo per trovare quello che è pensiero. Ma io vedo che in alcuni testi che ho dovuto leggere per capire questa filosofia, si fa un paragone con il pensiero occidentale, che sarebbe individualista e sarebbe tutto pensato da soli, però lì si riferiscono sempre a Cartesio. E allora uno dice, ma questo è una caricatura dell'Occidente. L'Occidente è molto più di Cartesio. E allora il paragone sarebbe con l'individualismo moderno, poi appunto questa nozione di persona è molto più antica, questa che viene dall'immagine di somiglianza, che è il rapporto fra le persone. La nozione di persona come rapporto ad altri viene proprio dal cristianesimo. No, lo dicevo come un altro esempio di come a volte viene distinto di finora, l'Occidente ha sempre pensato così, no, ma questo è a partire da Cartesio, questo è uno molto Infatti, moderno e poi non tutti si riconoscono in Cartesio al 100%. ma infatti No. forse mi sono spiegata male, è vero che è così, anche perché mi ricordo nel Medioevo ho letto di quelle cose che si facevano anche nelle chiese per quel che riguarda la sessualità, eccetera, come durante le cerimonie pasquali per dare valore alla corporeità. Quindi sì, forse mi sono spiegata male lì. No, no, no, Ho no, un po' la tendenza a spiegarmi un no, po'. espressione che a volte viene fuori e ci può limitare un po'. E no, la corporeità nel Rinascimento. Allora si parla di questa reazione ai nudi della Cappella Sistina. Sì, ma intanto stanno lì, stavano lì, e ci sono tantissimi che non sono stati toccati a Roma e in altri posti. Perché c'è stata una specie di battaglia in quel momento che si è concentrata su quell'opera molto significativa e ha lasciato in pace tantissime altre che le possiamo vedere, no? Certamente c'è una visione della corporeità molto, molto positiva. Infatti. Per fortuna, al massimo, quegli affreschi sono stati toccati o ritoccati dalla controriforma. Se fosse stata la riforma, non avremmo avuto niente adesso, non avremmo più niente Eh sì. di quegli affreschi, probabilmente, no? Ma ho visto nel chat che c'era qualche intervento. Aspetta, io non la vedo più. Ah, no, no, no, è Qualcuno un vuole saluto. dire qualcosa? È un Perché... saluto. Ah, ok. Ho scritto queste domande che tengo come, non so se avete visto nella chat quelle domande che tengo per tutte le volte che ci si riunisce e possono servire. Qualcuno vuol dire qualcos'altro, se no vi lascio andare. Beatrice è stanca. Fa ciao e dice già io vado. In effetti, forse dovevo fare più pausa. Non è da Feldenkrais parlare, scusa. I miei colleghi Feldenkrais mi scusino. Col tempo non ho avuto molto, anche perché è uno dei miei limiti, il senso del tempo. Io vado. Scusami, puoi spiegare meglio quando hai parlato che le nuove scoperte scientifiche aiutano a confermano certi aspetti della spiritualità, no? A che cosa ti riferisci? Tu hai citato un attimo Norman Doidge, hai citato alcune cose. Se puoi chiarire meglio a cosa ti riferisci Allora, quando. a parte il discorso di Norman Doidge, poi c'è anche tutto il discorso un po' collegato con le ricerche neuroscientifiche sul ruolo del ipotalamo, dell'amigdala, cioè il fatto che adesso ci può aiutare tantissimo noi, perlomeno io di sicuro, ma soprattutto ai ragazzi, anche per quel che riguarda le dipendenze da qualsiasi tipo, il fatto di tenere presente l'importanza della pazienza, del saper aspettare, e nel momento in cui sappiamo aspettare, sappiamo anche, perlomeno come se ne antifermi, che se ne rendiamo conto subito, se aspetti, hai pazienza. Riesci anche a lavorare di più con la parte volontaria, non agisci stimolo-risposta, e c'è proprio questo mio professore negli Stati Uniti che ha dei collegamenti anche con Harvard. Allora, lui innanzitutto è un etico e vede tantissimo il collegamento che c'è nell'etica. E lui si serve dell'etica che vi dicevo narrativa. Cosa vuol dire narrativa? Narrativa significa che lui collega, non si pensa solo alle qualità, alle virtù, alle regole, alle leggi, alla natura dell'uomo, ma si vede la singola persona in azione nella sua vita e vede molti parallelismi di questo con quello che per esempio fanno negli studi cognitivo-comportamentali e soprattutto per quel che riguarda il discorso sul fine. Nel momento in cui tu ti metti un fine, come dicevo prima, nell'amare l'altro, così nella cosa da raggiungere, ti integri nell'azione e impari pian piano ad usare le stesse vie cerebrali in modo diverso. Lo sappiamo benissimo noi come insegnanti Feldenkrais, che quando vediamo una persona che fa così, noi ci rendiamo subito conto che è un movimento automatico. E durante la lezione, penso che succeda anche a voi, guardate le persone e vedete e capite immediatamente chi lo fa senza pensarci in modo automatico, anche se non ci dice niente, e chi invece lo fa con la piena consapevolezza perché i livelli di lavoro sono completamente diversi. Detto questo, ci sono anche degli studi ad Harvard dove, come si chiama, il Ministero della Salute, non so se è proprio il Ministero della Salute, comunque quelli che si occupano della salute negli Stati Uniti, stanno facendo molti lavori interdisciplinari sulla mindfulness e anche sulla religiosità della persona perché vedono che anche se alcuni non vorrebbero, il tirare in ballo il discorso religioso aiuta la persona a star meglio. Quindi c'è tutto un'interconnessione che viene spiegata. Loro stanno facendo ricerche con dati, campioni, eccetera, non è che lo fanno così in base al sentito dire, per cui c'è sempre più una unità tra le due parti che si integrano. Mentre vorremmo andare o materialismo puro, spiritualismo puro, le nuove scoperte della scienza invece ci stanno dimostrando che l'uomo è un essere relazionale, che ha bisogno della relazione e che creda o no, io posso credere che Dio non esiste benissimo, tutto rispetto, però di fatto c'è un qualcosa da cui si dipende e quindi irrompere, ottenere relazioni affettive, di amore da tutti i punti di vista aiuta a stare meglio. Poi c'è tutto un discorso collegato anche alle fragilità, come si dice, alla vulnerabilità, ai limiti umani dovuti a malattie, problemi psicologici, per esempio all'autismo, all'Asperger, cioè c'è tutto che riceve aiuto per vivere meglio da un lato o dall'altro, o dal corpo, perché sono sempre interconnessi. Non so se basta. Poi No, grazie. ci sono, cioè il fatto, purtroppo sono stata teorica e non ho fatto tanto sperimentare perché ho detto fate voi un po' di respiro, un po' prima di cominciare perché non. Però io ho visto su di me, studiando e pregando, perché ovviamente anche prego così, come per esempio vedere l'etica in modo diverso, che non le regole, le leggi, tutte queste cose qua, cioè veramente ti cambia la vita da tutti i punti di vista. Scusami Raffaella, ma cosa intendi vedere l'etica in un modo diverso? Cioè, può avere tanti aspetti, immagino. Magari puoi spiegare un po' meglio questa cosa, se ti va. Perché nel corso della storia, in questo momento non è proprio teologia, è etica, ma poi quando nell'etica parli anche di Dio, di un creatore, c'entra un po' anche la religione. Allora, nel passato sono stati fatti, e anche a tutt'oggi, ci sono vari punti di vista etici. Nel passato, cioè se tu tieni presente la virtù, una persona agisce, se una persona in genere nell'azione è meglio sempre pensare che l'azione che fai la fai per amore verso un qualcosa, un qualcuno, perché dà senso e quindi sviluppi tutte delle caratteristiche di disposizioni verso far bene quella cosa che può essere la laboriosità, l'ordine, cioè, e se io voglio stare con una mia amica e sono super disordinata, come di fatto sono, e ci devo mettere un'ora per trovare il libro che l'ho promesso che le presto, sto un'ora meno con la mia amica. Allora, nel momento in cui io faccio le cose pensando al bene degli altri, magari indirettamente nei difetti che ho miglioro anche. Perché come nel Feldenkrais, il migliorare in una qualità fa migliorare in tutte. E quindi, invece che mettere l'accento sul negativo, mettiamo l'accento sul positivo. Ma poi ci sono anche le etiche basate sui regolamenti, i comandamenti, le regole, che Certo. danno priorità a quello. Altri che danno maggiore attenzione a quella che è la natura umana. Allora, se invece di perderti a dire miglioro le virtù, miglioro nel seguire le leggi, miglioro nel vivere secondo la mia natura umana, ma sai che come fine vuoi fare le cose per aiutare gli altri, che scrivi la tua vita in ogni singola azione che fai, unisci tutte queste cose. Diventa come, il mio professore la chiama un'autobiografia drammatica narrativa, cioè è la narrativa, cioè tu nasci e impari a vivere vivendo, come ciascuno di noi impara a fare le cose facendole, come impari a nuotare, nuotando, non impari leggendo il libro di nuoto, impari nuotando. E quindi man mano vai avanti per prove e per errori, sereno, avendo il tuo punto d'arrivo in qualcosa che desideri. Poi ci sono quelli che mettono come punto d'arrivo il successo, i soldi, e questo dipende. E sappiamo benissimo che c'è pieno di gente, pieno di soldi, che però la troviamo con la siringa nella vasca. Quindi l'essere felici, l'avere delle relazioni, e quindi in questo intendo dire che ci sono varie etiche. Poi ci sono le etiche che tengono presente semplicemente nel senso del dovere. Certo, sì, in questo senso forse senti la necessità, è giusto che noi abbiamo un atteggiamento critico rispetto ad un'applicazione rigida delle leggi o delle regole, ovviamente, perché la vita magari più, la vita umana di relazione può essere più utile, insomma. Penso di aver capito cosa intendevi. Ma guarda, Yes. le regole non sono contro la nostra vita, sono come le istruzioni per l'uso. Vale a dire, io ho il televisore o il computer, so che se lo uso in un determinato modo dura di più, se sbaglio certe cose lo rompo. Allora, l'idea è non pensare a fissarsi solo sulle regole, solo su questo. Le regole, pian piano che tu vivi, siccome ti rendi conto che ammazzare una persona non ti rende felice poi, per esempio, non occorre dire osservo la regola così. Oltretutto, se tu ami una persona, non hai bisogno di pensare che non la devi uccidere. Quando mai ti viene in mente di uccidere una persona che ami, per esempio? Quindi, sono tutte componenti che ci sono. Ma pian piano le interiorizzi, cioè le regole che sono fuori, pian piano arrivi a un punto nella tua vita, come dice San Giovanni nella Croce, che ha scritto La salita al Monte Carmelo, che c'è, io salgo, che l'ascetica, mi sforzo così, ad un certo punto non ci sono più le strade, le regole, io divento regola di me stesso. E quindi sono io che ho incarnato tutte le cose che ho imparato, ma non perché me le sono imposte, ma perché mi sono, cioè, come quando uno sta nel piano, all'inizio devi fare tutte le regole delle scale, però poi ad un certo punto, quando impari a suonare, non hai più bisogno di continuare a pensare alla scala che hai fatto. Ci metti anche in quel senso, intendevo dire, non so se. Scusa, penso che sei stata chiara. Ah, Era. No, basta che tu abbia capito, perché non so se. Importante. grazie, Raffaele. Grazie a te. E se vi vengono in mente delle cose ai prossimi giorni che possono aiutare anche a me per relazionare meglio, per avere punti di vista diversi, perché siccome pian piano voglio organizzare tutte le cose, è bello vedere i punti di vista diversi. Perché quello che a me sembra concava, magari un altro vede convesso. E chi ha ragione? Tutti e due. Invece molto spesso, e per esempio nell'etica lì del dovere, o fai questo o questo. E invece la vera etica è quella che arricchisce cioè io per esempio in certi momenti della vita ogni sera pensavo quanto ho ragionato in o in È un trucchettino sciocco, semplice, però di fatto lo è l'opposizione e quindi non se ne viene fuori. tu fai quello che dico io o te ne vai, allora uno se ne va. Se invece tu prendi il tuo punto di vista, il mio, e magari ne viene fuori un terzo, sono tre che uniscono. Quando le persone vengono da me, io sono insegnante Feldenkrais, e vengono per un problema, però ti accorgi subito che c'è come una disgregazione proprio di sé, una separazione del corpo, ma anche proprio del pensarsi, uniti. E io mi accorgo che quello che ho è io che ho sperimentato che il corpo è un dono, che è tutto un cammino verso questa unità, cioè verso questa unità di sé. Non è raggiunta questa unità, ma siamo in un percorso. Eh No. sì. E questo è la prima cosa da comunicare con sé, come tu guardi la persona che è disgregata, che ha quel problema e vede solo quello, e invece è guardarlo per com'è la persona, perché la moralità, per come io penso che sia, è aiutare la persona a diventare ciò che Sì, ma è così. Quello che ha dentro, non a caso, io mi scuso con chi può essere non cristiano, però sono partita proprio dal discorso della creazione. Dio ha pensato a ciascuna persona, secondo il cristianesimo, dall'eternità unica, originale, così com'è. E poi c'è questo ragazzino, non so se ne avete sentito parlare, Carlo Acutis, che è un ragazzino che è morto in 3 giorni di leucemia. Il quale dice: tutti nasciamo originali, alcuni muoiono fotocopie, ed è così, perché c'è sempre il solito discorso che se tu vai controcorrente e diventi, lavori per diventare quello che sei, non è facile che il gruppo sempre ti accetti e quindi devi essere disposto ad avere una vita un po' più complessa, che è quello che diceva Feldenkrais della maschera, che tutti si mettono la maschera per essere accettati. Se tu non ti metti questa maschera e sai come sei, sai che sei tagliato fuori dal gruppo. Allora devi decidere tu la cosa a cui più tieni. Perché poi qua è questione di libera scelta, cioè, un po' nessuno. Ovvio è che siamo esseri relazionali, su questo non ci piove. E c'è L'altra voglia cosa di. che volevo dirti è che camminare verso un'unità è comunque testimoniare una bellezza, cioè far sperimentare una bellezza, no? Per cui diventa convincente nel momento in cui tu sperimenti che è bello muoversi più collegati, percepire la presenza dell'altro e così via, no? Ti accorgi di più fattori che riempiono la tua vita, quindi la tua vita diventa piena perché ti accorgi che ci sono più cose che tu riesci a vedere, a sentire, a sperimentare, no? E questo ti rende più vivo, no? Quindi che c'è, come dire, un cammino anche verso una bellezza, no? Certo, che Questa. poi il bene e il bello sono la stessa cosa, tant'è vero che lì nella Bibbia, mi avevano detto che è in ebraico, io non lo so, che però quello che viene tradotto, vide che era cosa buona, è anche tradotto cosa bella, e poi in filosofia antica, bello, buono, vero, sono interscambiabili in un certo senso, quindi cioè, se una cosa è bella non può non essere anche buona. E non può non essere vera, cioè, ma è vero questo. E io penso che anche nella nostra disciplina, quando vediamo le persone nei corsi a muoversi così, capiamo subito com'è anche la loro unità. Certo, non tutto, però si vede subito quando una persona è anche questa bellezza che cerca l'unità e è attento anche agli altri, quando invece. Cioè, mi ricordo una volta un corso. Dire quanto siete belli. No, Infatti. vedi, no, un movimento no, più integrato, si dice, viene da dire proprio con stupore, ma quanto siete belli. Infatti, infatti, e armoniosi. E armoniosi, è vero. È verissimo questo, infatti è. Cioè io mi sono innamorata della teologia del corpo di Giovanni Paolo II perché io da ragazzina ignorante avevo appena cominciato il corso Fenecas e vedevo tantissime analogie e dico, ma cavolo, poi scopri che questo è stato attore, ha lavorato nelle cave, quindi il corpo l'ha vissuto, era sciatore, guardava i ragazzi ed è vero, cioè tu se fai fare attività di movimento ai ragazzi li conosce in modo diverso rispetto a un insegnante di lettere che conosce l'intelligenza, ma poi nella vita capisci di più tu della vita del ragazzo che non. Io ho conosciuto l'insegnante di ginnastica di Giovanni Paolo II. Dai. Sì. Quando aveva, io sono andata nell'81, quindi sto parlando, lui più o meno aveva 80 anni ed era un uomo splendido, dritto come un fuso, era bellissimo. Ho detto, ho capito da dove è venuto Giovanni Paolo II. Infatti, cioè, tu tieni presente adesso, lasciamo perdere che era Papa, che uno può avercela anche con la religione di per sé, ma la gestualità che aveva era girare il bastone, far così col mantello, cioè proprio era una gestualità che se tu pensi a Papa Ratzinger, poverino, quando alzava le braccia era così, non aveva niente gestualità, però era bravissimo invece con la Certo, musica, con un'altra storia. Sì. un'altra storia, però sempre un senso sviluppato. Non è. E questo cos'è il tango? Questo vale il tango. Le persone. Ok, se volete ci lasciamo. Cioè, se qualcuno vuol chiedere parlare, io sono ben contenta, ma non vorrei stancarti. Elena, vai, se devi andare perché non voglio. Arrivederci, grazie, alla Oh, grazie prossima, a te. grazie a tutte. Grazie. Anche io vi saluto, grazie, grazie tante Raffaella e a Grazie a Chie. voi. Ciao. Ciao. Grazie, ciao a tutti. Grazie. Vi saluto e vi ringrazio. Buona serata. Alla prossima puntata. Ciao. Ciao, ciao, ciao.